Sconvocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ancora la Padula! 4-1 Milan. Felipe Anderson, gran palla per Basta, entra in area, Basta cross arretrato e la gira Milinkovic. Movimento di Petagna sul primo palo, salta Kurtic, Atalanta che favola, 2-0. Terra Perotti, calcio di rigore, fischia Errati, la rincorsa, parte Perotti in rete. Che prova a colpire, deviazione, la palla sulla traversa e poi dentro, e c'è la ribadita Simeone, prima ha toccato Rigoni, poi una deviazione, poi Simeone, un pomeriggio di ordinaria follia Marassi per la Juventus. Durante la stagione ci sono delle battute di arresto, è normale che abbiamo perso 3 partite, tutte dopo il turno di Champions. Oggi abbiamo preso 3 gol dentro l'area piccola, uno addirittura dopo 4 tiri in porta, quindi a livello di reattività all'inizio siamo stati in ritardo rispetto al Genoa. Se lo merita tutto, Nico Rosberg è campione del mondo per la prima volta in carriera, riesce dove è riuscito suo padre nell'82 a conquistare il titolo, 20 anni dopo il secondo pilota che riesce a fare quello che ha fatto il padre 20 anni fa, Damon Hill, questa volta è Nico Rosberg. Hamilton ci ha provato, Nico Rosberg l'ha conquistato. Thank you guys, thank you very much. We never forget this car, this moment, this team, this job. So thank you really, all of you guys. Eccovi gli argomenti del weekend con la copertina di Giorgio De Luca, Gianmarco Ferronati in regia, Alvise Falzoni in redazione. Dunque, calcio con la Juventus che, la Gazzetta titola Pesto alla Genoana. Poi c'è il titolo di Nico Rosberg, ci sono due partite importanti da aspettare questa sera. Pierluigi Pardo, buongiorno! Come va? Molto bene, tu? Bene, a parte un raffreddore che ormai mi perseguita da giorni. Ma sento, insomma, parli nasale. Nasale. Paola De Gregori, non per entrare nel merito del motore. Senti, dimmi della Juventus, è malata o no? Beh, è un passaggio a vuoto abbastanza inquietante, però nella storia anche delle grandi squadre ci sono dei passaggi a vuoto. Mi ricordo l'Inter di Mourinho a Bergamo qualche anno fa, quando disse, entrò negli spogliatoi nell'intervallo e disse: avete vinto uno scudetto assegnato in segreteria. Lo ricordiamo. No, ma citavo quell'esempio lì perché quello che viene più diretto, no? Ci sono nella stagione delle grandi squadre anche degli schiaffi che possono anche diventare salutari. Ora, la sostanza è che ha ragione Allegri, sono 3 sconfitte dopo le 3 partite di Champions, dopo le 3 trasferte di Champions. E di buono c'è che le trasferte di Champions sono finite, quindi adesso la Juve può concentrarsi sul resto. Certamente è un segnale innanzitutto che riapre il campionato, che gli dà una percezione di interesse, e quindi questo dal punto di vista dell'interesse complessivo fa piacere a tutte quelle che inseguono, e dall'altro penso che possa essere un campanellino interessante che, se Allegri saprà far fruttare, potrà tradursi una possibilità di ripartenza. Poi ci sono un po' di problemi fisici, un po' di acciacchi, una convivenza Higuaín-Mandžukić che non è ancora assolutamente al meglio, cioè ci sono un po' di temi sparsi. Detto questo, io rimango dell'idea che abbiamo espresso l'altro giorno, cioè lo può perdere solo la Juve sto campionato. Questa è la mia idea di partenza, però vediamo. Credo, Pierluigi, che tu sia d'accordo nel dedicare questa puntata al comune amico Marino Bartoletti. Assolutamente, infatti pensavo che proprio cominciasse, però avrei fatto bene a partire con la clip, perché quelli comunque sono i temi della giornata. E Marino è un amico credo tuo, storico, tuo fratello, esatto, sì. Ed è una persona che io conosco da qualche mese, è una persona molto molto carina, un grande di tutti i convocati e anche un grande ascoltatore di tutti i convocati, quindi sì, magari ci starà anche ascoltando. Quello che gli è successo Non ha spiegazione, le parole non ci sono. Le parole non ci sono. che gli vogliamo bene, gliel'abbiamo detto scritto in privato, gliel'abbiamo detto scritto su social network, glielo diciamo in questa che è casa sua, che è il suo ambiente naturale, e sul resto, insomma, diciamo che con queste cose qui non ci si capisce niente, no? No. Non ci sono solo la vita, solo la vita è così. Senti, dammi una battuta sull'Atalanta prima di andare in traffico. L'Atalanta è una meraviglia. L'Atalanta è una meraviglia. L'Atalanta in questo momento è tecnicamente il Leicester italiano, anche se magari non vincerà il campionato. Però se c'è bisogno di un esempio che riassuma appunto in una sola storia un mix di forza, di determinazione, di bellezza anche, di voglia di vincere, di disprezzo del pericolo anche quando affronta le squadre più forti, questo esempio è l'Atalanta. E adesso si arriva a questa partita che è diventata improvvisamente un clamoroso big match, sì, e che non vediamo l'ora di vedere sabato sera. Sì. Allora, traffico, poi torniamo. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, per i vostri iscritti WhatsApp o SMS. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia il coso rosso. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta. Tutti convocati. Contro di noi hanno giocato comunque con un modulo diverso rispetto al Siviglia, però Siviglia in prima mezz'ora ha dimostrato che quando aggredisci bene e alto si riescono a rubare le palle e che ci sono possibilità di fare male. Ci siamo veramente appoggiati molto anche su quella partita. Oggi abbiamo preso solamente 9 gol e oggi sicuramente i 3 gol ci hanno rovinato la media, soprattutto nelle ultime 7 partite di campionato abbiamo subito sempre gol fuori che Pescara. Quindi questa è una cosa su cui dobbiamo lavorare e rimetterci in sesto. Però io devo vedere anche il positivo. È normale che la batosta di oggi non ci deve stare per come è venuta, perché un conto è perdere in un certo modo, un conto è perdere così. Allora Pierluigi Pardo, secondo te quanto gode Luca Bizzarri? Abbastanza. Ma no, mi sembra, come dire, tutta una cosa normale. Avevo scritto a Pierluigi tutta una cosa normale, battere la Juventus, asfaltare la Juventus in questo modo, Luca. Facili, insomma, 1-0, 3-0, ciao, ecco, partita finita. È vero. Confermo tutto, ma aveva scritto ne famo tre, una cosa del genere. Ed erano ma gliene famo tre nel primo tempo non succedeva da 11 anni, eh. E credo non succederà per altri 11, però è stato bello così, insomma. Sono delle belle domeniche sport. Sì. Non potevo crederci, devo dire per la verità, per gli Juventini, soprattutto i vedovi di Conte, è stata una domenica epocale, Luca. Sì, sì, ma devo dire che con Allegri a Marassi noi abbiamo sempre fatto delle belle partite, ci siamo sempre tolti delle belle soddisfazioni. Ieri veramente sembravamo una squadra di livello, forse probabilmente noi eravamo più belli del solito e loro molto più brutti del solito, però sono contento perché la vittoria è assolutamente meritata, non c'è stato niente da dire. Cosa vuoi dire? No, è stata una grande dimostrazione di energia, quella che c'era all'inizio della stagione, che poi si era un po' persa. Sì, c'è però stato insomma il Genoa ha battuto anche il Milan, non dimentichiamocelo. Sì, battuto... secondo me c'è stata la batosta del derby che un po' ci ha, dal punto di vista mentale, ci ha fatto un po' rallentare. Spero che quella cosa sia dimenticata e che questo sia l'inizio di un periodo un po' più tranquillo. Nonostante il nostro, a questo punto, credo che sarà un campionato abbastanza tranquillo. Naturalmente il mugugno genovese c'è già. Stamattina il primo messaggio che mi è arrivato da un amico genovese genuano è stato: vedrai che giovedì usciamo dalla Coppa col Perugia. questa è la depressione tipica dei tifosi del Genoa e del Torino e di queste squadre, no? Cioè, appena è venuta la Juve il primo pensiero è stato: adesso vedrai che giovedì usciamo col Perugia. Perugia. Ma la del Perugia passeggerà. Senti, ma chi è il tuo eroe in questo momento? Il Ciolito? Cioè, quello proprio che è quello a cui vuoi più bene, beh, quello Ciolito che ami sì, di più. Ciolito devo sì. dire che a me piace molto Rigoni in questa, questa parte del campionato. Lo trovo veramente uno che canta, porta la croce, fa veramente un gran lavoro in campo e quindi a me piace moltissimo. Tra l'altro Rigoni posso dire, è un calciatore fantastico. Un po' sottovalutato secondo me mediaticamente, se ne parla poco, non è mai approdato in un grandissimo club, con tutto rispetto ovviamente per il Genoa, ma non è mai arrivato in una delle grandi storiche, ma è un giocatore che dal punto di vista del rendimento, Chievo, Palermo, ha sempre fatto gol, assist, veramente uno un po' sottovalutato secondo me dal grande pubblico. Sì, sì, un gran cuore, grande gamba, insomma, uno che a me piace moltissimo. Luca, ma cosa ne pensi di Juric? Cosa ne pensi di Juric? Avrei voluto dire Perin, ma non ho fatto un tiro in porta. No, dimmi cosa ne pensi di Juric. Io con Juric sono molto amico e siamo usciti alcune volte a cena insieme anche quando giocava, perché il trio era Milanetto, Juric, Bizzarri. È una persona veramente straordinaria. A parte che credo sia anche nobile lui. ed ha una nobiltà d'animo. Questo ha una nobiltà non lo so. D'animo. Sì, credo che sia nobile, però e comunque ha una nobiltà d'animo veramente eccezionale, un ragazzo che a me piace veramente tanto, sì, mi piaceva tanto come calciatore, mi piace molto come allenatore, mi piace come ha messo la squadra, mi piace che ha preso le cose buone che ha fatto Gasperini con noi, le ha trasformate a suo modo, ma si vede che l'imprinting è quello e sta facendo un grande lavoro. Senti, ma per te, genoano, battere la Juve in questo modo cosa significa? Ma niente, te l'ho detto, sono partite che vanno come dovrebbe andare la storia del calcio. Noi abbiamo un platone che la Juve allora se lo allora io mi arrendo. Quando allora, noi giocavamo a questo punto io mi arrendo. A Torino e giocavano ancora a petanca con la bagna cauda, per cui noi abbiamo insegnato a tutti voi il gioco del calcio, giustamente. E alla Sampdoria? Che vuoi dire alla Sampdoria? Che vuoi dire alla Sampdoria? Non ci mollano un secondo. Ogni volta che le cose vanno bene a noi, guardate, ogni volta che le cose vanno bene a noi vanno bene anche a loro, quando vanno male a noi vanno male anche a loro. Non sì, ma c'è, poi c'è la quella maglietta, la seconda maglia, quella disegnata dai bambini, hai presente? Con le non strisce. Guardo le maglie della Sampdoria dal 1973. No, va bene. Questo è interessante perché è una tendenza, io capisco che c'è la rivalità da derby a Genova, a Roma, in tutte le città, ma molto spesso, se ci fate caso, l'andamento di una squadra è in qualche modo è uno stimolo per l'altra. Insomma, non ci dimentichiamo che l'ultimo scudetto, per esempio, della Lazio e della Roma è arrivato in due anni successivi. Questo perché era un altro calcio, ma allora presidente Sensi fece un investimento super, probabilmente stimolato, quello di Batistuta, probabilmente stimolato anche dal fatto che la Lazio aveva vinto il campionato. Quindi io capisco che ci sia sempre rivalità, che uno gode nel vedere il cugino che soffre, ma in generale la storia recente dice che poi l'andamento di due squadre della società quasi sempre uguale, perché fanno lo stimolo una nei confronti dell'altra. Se ci si accontenta dell'essere meglio di qualcosa di mediocre, poi alla fine non si cresce. Ah beh, certo, per Genova insomma salvarsi e vincere i due derby è come vincere uno scudetto per noi. Certo. Questo lo posso capire. Senti, stasera ci guardi, ci sono Perotti e Rincon, io faccio di tutto per accerchiarti, grande Perotti, quanto è forte però. Perotti scoperto dal mio amico Milano. Mandaci un video. Giocatore straordinario, però giocatore straordinario, peccato che se ne sia andato, però vabbè. Però è il destino dei forti del Genoa. Rimasto molto legato all'ambiente, in grande sintonia, tra l'altro è amico di Rincon, quindi anche è lui generale. Generale fortissimo, anche ieri ha fatto una grande partita, il generale, mi piace proprio tanto. Che idola. Vabbè, siamo forti. Luca, siamo forti. Dai ragazzi. Godi in santa pace. Ok, grazie. Sì, tranquilli. Adesso fino al derby di ritorno per me il campionato. Fino al derby di ritorno chi se ne frega. È quasi fatto. Va bene, ciao Luca. C'è Tommaso dalla provincia di Torino, 800240024, numero verde. Tommaso, buongiorno a tutti. Dica. Un saluto a Bizzarri che è un grande, lo seguo su tutti i social, è veramente numero uno. Detto questo, io sono un tifoso juventino, vedo troppo pessimismo, volevo dire questa cosa qua. La Juventus ieri ha giocato una partita con forze di di Higuain, la forza di Dybala, la forza di tanti campioni che erano fuori, e ovviamente era in difficoltà, tant'è che come è stata schierata da Allegri, che abbia delle colpe o meno, era oggettivamente perché non avevi giocatori in campo. Prendere uno sberlone può essere utile anche a capire che a questa Juventus manca Pogba e che quando perdi uno come Pogba devi sostituirlo. Quindi a gennaio, se vogliono che questo squadrone, perché io continuo a pensare che la Juventus sia uno squadrone, abbia dei cambi, se ancora prima nel girone di Champions e prima in campionato, con tutti gli infortuni che ha avuto, significa che questa volta anche la rosa a sostenerla, però manca un giocatore di quantità e di qualità a metà campo, lo comprino adesso visto che dovranno comprarlo a fine, mercato. Questo è uno dei grandi temi della stagione. Carlo, sono d'accordo sull'ottimismo, nel senso che insomma secondo me non è veramente una situazione adesso né irrecuperabile né problematica, insomma è una sconfitta, qualche segnale di non perfetta salute sta arrivando, però insomma la Juve, l'abbiamo ricordato anche ieri, è in testa alla classifica con 4 punti sulla seconda, è in testa al girone di Champions, ha tanti giocatori fuori che recupereranno. E non dimentichiamo, Pier, ancora... che è l'unica squadra in Europa ad essere in testa al campionato e in testa al girone. Esatto, no, ma infatti, però il discorso sul centrocampo è un discorso vero, nel senso che sicuramente rispetto a qualche anno fa c'è un centrocampo che si è indebolito, su questo non ci sono dubbi, perché comunque Vidal, Pirlo e ovviamente Pogba sono tre giocatori importanti, tre giocatori che non è facile, no? da sostituire, non sono facili da sostituire, da rimpiazzare. Quindi io credo che sia veramente tutto nella norma. Certo, ieri abbiamo visto qualcosa di interessante, di curioso, qualcosa che in qualche modo può essere inquietante per la Juve, ma ripeto, io penso che possa anche essere uno schiaffo in qualche modo positivo per affrontare le prossime sfide della stagione. Intanto il dubbio ce lo togliamo presto, perché adesso la Juve ha un calendario complesso, ha queste tre partite. Vedo quel derby come una prova del 9, io. Sì, io vedo quel derby come una grande partita. Juve-Atalanta ovviamente in questo momento è una partita complicata, una partita con delle insidie, e poi c'è Juve-Roma. Però insomma, se la Juve fa 7 punti in queste tre partite, ma anche se ne fa 6, secondo me rimane serenamente in testa alla classifica e con una certa, con un segnale di forza. Penso francamente che sia ancora molto presto per considerare la squadra in crisi, il campionato riaperto. Ma no, in crisi, sai, hai appena vinto a Siviglia, hai un sacco di infortunati, è chiaro che tre sconfitte in un numero esiguo di partite sono tante, però non mi sembra di poter considerare la Juve in pericolo di vita per quanto riguarda questo campionato. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, grazie per l'invito. Io volevo cambiare un attimo argomento, fare una brevissima considerazione sulla partita di Torino contro il Torino al Chievo, perché dico la verità, ieri ho avuto la sensazione di vedere una delle classiche partite che ci fanno disamorare un po' il calcio, perché l'arbitraggio della partita lì è stato a dir poco scandaloso, ma non a detta di chi come me magari ti chiedo. Guarda, non saprei dire. No, però nel momento in cui basta vedere le immagini, perché poi sta lì producendo. Io non credo che, semplicemente non credo che il Torino sia una delle squadre dell'establishment, del potere, di tutte queste cose qui. Io la conquista del mondo, ma facciamoci meno posso dire, facciamoci seghe meno mentali. Ecco, ti ringrazio, non avrei trovato parole migliori per esprimerlo. Ci sono stati degli errori, insomma, questo è indiscutibile e gli errori vanno giudicati, vanno visti, hanno analizzati nelle moviole ed è giusto sottolinearlo, ma da qui a fare chissà quali ipotesi complottistiche, mi sembra esagerato, no? Mi ricordo all'inizio dell'anno il presidente Preziosi, giustamente furibondo dopo Genoa Pescara, un arbitraggio che aveva chiaramente sfavorito il Genoa, lo dico senza se, senza ma, era appena arrivato lo 0-3 di Sassuolo Pescara, disse forse c'è un disegno per favorire il Pescara. Ecco, cioè, andiamoci piano con queste ricostruzioni, perché veramente l'errore è parte del gioco, sbagliamo noi giornalisti, sbagliamo mille cose noi automobilisti, noi certo. facciamo la fila al supermercato, cioè, certo. si sbaglia e arbitrare è una cosa complicatissima, va ricordato. Poi che le moviole vadano fatte e che gli errori sì, vadano fatti. Però sul complottismo, sull'idea su un Torino Chievo, io ho qualche dubbio, insomma, anch'io, ho qualche dubbio e me lo tengo. Ci fermiamo per la borsa, torniamo subito dopo. Tutti convocati. Questo si fa fatica, ragazzi. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Pardo, c'è Mister Paolo Condò. Che spettacolo! Partiamo dal processone alla Juventus. Ho appena visto, mi è appena arrivato un libro di Franco Esposito, il vostro inviato, con prefazione di Paolo Condò. Ma Paolo, ma quanto scrivi? Ma c'è, hai fatto una media di quanto scrivi, Condò? In media, no, adesso meno di una volta, adesso chiacchierò tanto. Adesso parlo con tono, come diciamo in gergo, esatto, che a noi non manca, No, fra l'altro, io comincio a pensare che ci abbiamo preso per quello, perché riempiamo il televisore per un fatto, strettamente. Non c'è bisogno di scritturare altra gente, sono noi dentro il video. Allora, vuoi fare un processo? Sì, per le vedove di Conte, Paolo, siamo qua apposta. Ma insomma, secondo me, Conte e Allegri hanno un tipo di modo di fare allenatore che è profondamente diverso. Conte è un allenatore che praticamente tu gli potresti mettere in mano il joystick della PlayStation, perché lui a bordo campo, cosa che a volte, come abbiamo visto anche con Pochettino, fa innervosire i suoi colleghi, lui indirizza i movimenti di tutti i giocatori, tu vai di qua, tu vai di là, tu vai, stai su, vai giù, attacca, difendi, li comanda proprio a bacchetta, invitandoli ovviamente a ripetere le cose che sono state studiate in allenamento. Allegri è diverso, se vogliamo usare un termine impegnativo, allena il libero arbitrio, e cioè lui vuole che ogni giocatore abbia 3-4 opzioni di gioco fra le quali scegliere, ma deve sceglierla lui, non sì, l'allenatore. Ho capito, però c'è un problema. Abbiamo un problema. Vado rapidissimo. Sì. Secondo me nessun giocatore può resistere più di 3 anni con un tipo di allenatore come Conte. Bravissimo, sono d'accordo con te, con un tipo di allenatore come Conte, con un tipo di allenatore come Capello, con un tipo di allenatore come Mourinho. Ma con Allegri se può fa. Siamo già al terzo anno, ha già vinto 2 scudetti, ha fatto una finale di Champions League, quindi non mi sembra che il suo bilancio sia negativo. Sì, però Dybala, Chiellini, Barzagli, se vuoi ti faccio l'elenco degli assenti. Cioè tu dici che la sua preparazione atletica sia troppo pericolosa per i giocatori? Qualcuno dice questo. Onestamente io non ho la competenza e soprattutto non assisto agli allenamenti per poterlo dire. Ricordo qualche anno fa, ecco, lì c'erano dei dubbi, tra l'altro sul mio amico Mancini, perché all'Inter si erano fatti male tutti, c'erano stati 18 infortuni, non ricordo che tipo di infortunio muscolare, ma era stato identico. e allora qualcuno aveva detto qui c'è qualche esercizio che viene fatto che evidentemente non va bene, però voglio dire, ti sto dando dei pareri molto empirici perché non ho la competenza atletica per dirti che cosa va fatto e che cosa non va fatto. Sono diversi e alla fine bisognerà capire chi arriverà più lontano. Sono sicuramente approcci molto diversi. La Juve di Allegri è stata da sempre una Juve che gestisce di più, che ha qualche pausa perché poi forse alla fine è anche sano che sia così, perché vuole arrivare fino in fondo. La Juve di Conte è una squadra che, a parte il primo anno, quello dei pareggi, poi si è sempre ingarellata, come diciamo noi giovani pischelli romani, con l'idea, cioè si è sempre intrigata sull'idea del record, del non staccare mai il piede dell'acceleratore, e questo è un fatto oggettivo che qualche volta secondo me ha portato anche a degli errori. Penso alla famosa semifinale col Benfica di Europa League, secondo me vissuta senza quella ferocia che era necessaria, con un po' di turnover che non fosse come una grande idea. Stiamo parlando di due grandi allenatori, io non faccio veramente fatica a dire, capisco che in questo momento, soprattutto nei momenti di difficoltà di Allegri, e in una situazione che non è troppo brillante dal punto di vista del rendimento e del gioco in questi tre mesi, il rendimento sì, ma del gioco no, in questi tre mesi della Juve ci sia qualche nostalgico di Conte, anche perché Conte sta facendo benissimo. Io su Conte, devo dire la verità, avevo avuto a un certo punto la sensazione che potesse essere imbrigliato nel campionato inglese, cioè che la sua proverbiale ferocia, sì, la sua però mi sembra passare. Invece no, invece sia, no. Allora, lo stesso discorso che abbiamo fatto mille volte, dopo due scudetti e due Coppa Italia e una finale di Champions League, mi sembra il caso di considerare la Juventus una creatura di Massimiliano Allegri, che è un grande allenatore. Okay. Allegri, ragazzi, è arrivato in finale di Champions League grazie al gioco europeo. È vero che non aveva esaltato in quella Champions tutto quello che volete, perché poi la Champions è una competizione veramente liquida. La vinta di Matteo col Chelsea, dopo aver sofferto tantissimo contro il Barcellona e dopo aver subito in finale contro il Bayern la vinta di calcio di rigore, cioè la Champions non è una... Già il calcio non è una scienza esatta, la Champions da questo punto di vista è proprio il regno dell'inesatto, quindi quella è un'altra partita, si vedrà più avanti. Però che la Juve sia attrezzata e che Allegri abbia dal punto di vista tattico tutti gli strumenti perché possa far bene in Europa, questo è evidente. Tu, Paolo Condò, credi in un calo di tensione? Io credo in un calo di tensione, sì, questo senz'altro. Credo anche in una formazione sbagliata, perché onestamente Dani Alves, Lichtsteiner e Quadrado, sì, tutti nella stessa 11, non li vedevo e non li ho visti ieri, sì, per esempio. Però voglio dire, gli errori si commettono, non è che nessuno è perfetto e non sbaglia mai. Comunque credo Dybala manca tantissimo. Esatto, cioè la Juventus aveva due, come dire, come li vogliamo chiamare, grandi campioni, dai, facciamo così. Aveva due grandi campioni, che erano Pogba e Dybala. Ecco, uno è stato ceduto, e l'altro doveva diventare l'enorme stella. Ti dico, Higuain è un grande campione nel suo ruolo, però Higuain è un finalizzatore, Dybala è un creatore di gioco. Cioè, se tu perdi, ormai cos'è, più di un mese mi pare, un mese che Dybala è fuori, ecco, hai perso il tuo grande creatore di gioco, il giocatore che ti deve dare proprio il marchio sul ciclo. Ecco, il marchio... C'è stato il ciclo dei Pirlo, Vidal, Tevez, certo. Ecco, poi c'è stato, Pogba ha partecipato a quel ciclo e ne ha aperto un altro introducendo Dybala, adesso è Dybala il giocatore che ti deve dare il senso di questo ciclo, assieme a Higuain. Se ti devo dire, ma non è una sorpresa perché già nelle volte scorse avevamo espresso questo concetto, mi aspettavo un inserimento più facile da parte di Pjanic. Pjanic, al di là del fatto che probabilmente il miglior tiratore di punizioni del mondo, Pjanic non mi ha ancora convinto a pieno. Non è nel vivo, non è il video del gioco. Siamo è un grande d'accordo. Kicker, usando l'espressione da football americano, cioè ovviamente sì, ha una capacità balistica da fermo impressionante, e lì sta facendo forse addirittura meglio che nel passato, anche se l'anno scorso fece benissimo con la Roma. Però insomma, diciamo che siamo in un ulteriore miglioramento rispetto all'anno scorso, ma dal punto di vista della manovra è un giocatore non del tutto, sì, non del tutto ancora inserito. Poi, Pier, come dicevo ieri, si tratta di capire quando una squadra è in un momento di difficoltà deve capire qual è l'undici titolare, certo, e dove vanno messi i giocatori. Questo sicuro, questo non c'è dubbio. Io penso che il grande nodo sia lì davanti, perché comunque Wayne Mandžukić non sta funzionando, l'assenza di Dybala si sente tantissimo. Insomma, in questo momento la Juve è più debole dell'anno scorso, perché è chiaro che se tu non hai l'extra boost, come direbbero gli inglesi, cioè non hai il vantaggio clamoroso, no, dell'arrivo di Higuain, insomma, poi fai fatica, fai molta fatica. Sì, che poi... perché il centrocampo è più debole. Grazie, vi chiedo un attimo di pazienza, ho il traffico e due ascoltatori. Tutti convocati. I love this game. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta. Tutti convocati. Allora ragazzi, Paolo Condò e Pierluigi Pardo, voglio farvi parlare con Giacinto da Genova. Salve, buongiorno. Buongiorno, dica. Buongiorno. Dove Genova? Da Genova Pegli, ridente cittadina. Giusto per essere precisi. Dove si allena il Genoa? Quindi c'ho il nemico proprio in casa io. O si allena no, il Genoa? È vero, perché questa cosa mi corregga se sbaglio. Chiaramente la Samp si allena a Bogliasco, quindi si allena a Levante, il Genoa si allena a Pegli, quindi a Ponente. Però mi sembra che invece in generale ci siano più genoani a Levante e nel centro storico e più doriani a Ponente, o sbaglio? Il doriano è più spostato verso veramente sì, Sestri, San Pier d'Arena, quindi più vicino, esatto, a Pegli, esatto. E dall'altra parte ci sono poi nel centro proprio ci sono un po' più genoani, sì, forse. E oltretutto tiro l'orecchia anche all'allenatore in seconda del Genoa, Corradi, il mister Corradi, sì, che è stato mio compagno di squadra per 2-3 anni tra promozione eccetera eccetera, il calcistico, quindi gli ho mandato un messaggio ieri per tirargli un po' le orecchie. No, volevo intervenire, però ha già detto parecchie cose il signor Condò. Non mi piace giudicare gli allenatori, perché comunque bisognerebbe essere sempre in settimana con loro, però ieri la formazione di Allegri, quando io l'ho sentita, ho detto partiamo 1-0 per gli altri, poi vediamo se recuperiamo questa partita, perché un centrocampo con Piani, Cernanes e Khedira, quando perdo palla bisogna che entra qualcuno che corre dietro gli avversari. Vedere Dani Alves basso mi ha un po' intimorito, e seconda punta anche Cuadrado sinceramente non credo che... Quindi Allegri, che ha fatto benissimo in tutti questi anni, ogni tanto ha qualche colpo. Questo è quello che passa al convento dell'infermeria, mi pare. Allora posso partire con Sturaro subito, forse, che magari ha un po' più di corsa. Adesso è chiaro che dal divano si fa presto. Sì, dal divano non so, rispondono Pardo e Condò. No, io vi dico un mio sospetto per quanto riguarda la gestione di Allegri quest'anno, che si stia ragionando come ragionò Frank Rijkaard l'ultimo anno che non andò bene al Barcellona, e cioè che tutte le sue, però occorrerebbe un rinforzo statistico a questa sensazione, che lui stia facendo le formazioni contando sempre con grande accuratezza i minuti che giocano i suoi vari ruoli, il minutaggio complessivo, che naturalmente alla luce degli incidenti deve essere ma questo in funzione di marzo, per esempio, Paolo? Io non toglierei mai, sì, esatto, io non toglierei mai Marchisio dalla formazione. Per me Marchisio è di gran lunga il miglior centrocampista della Juventus, però capisco che essendo rientrato non da molto e avendo fatto delle partite consecutive ieri, immagino che l'abbia messo per questo motivo in panchina e abbia fatto giocare Hernanes, che è un giocatore che non ha i ritmi per giocare, per me, contro squadre tipo Genoa, Atalanta, Torino, per dire quelle che affronta in questa fase la Juventus. Lui ha dei ritmi per affrontare le squadre che si chiudono e che non propongono una grande opposizione agonistica, diciamo, ma soltanto tecnica e difensiva. Cosa ne pensi, Pier? Guarda, io penso veramente tante cose da questo punto di vista. Credo che però Condò abbia detto tutto benissimo, e di fronte a quello che dice Condò io non posso far altro che battere le mani e applaudire. Vabbè, addirittura. Pensa che una volta andavamo insieme nelle trasmissioni e lui Senti, Paolo, parliamo delle altre, perché stiamo provando a trovare. Tu che non esci più ormai, che stai sempre lì in studio a mettere il tomaccione a scrivere, a parlare. Io ero d'altra sera, no, ma parliamo delle altre, proviamo a parlare delle altre un attimo. La Roma che comunque dà una risposta, il Milan che nel segno di del Carneade, permettetemi l'espressione, la Padula vola ad Empoli. Stiamo provando a mantenere artificialmente in vita il campionato, mi pare. No, ma no, vai Pier, tocca a te stavolta. No, allora, come tocca a te? L'ho chiesto a te quando... Facciamo un po' come... no, allora, il Milan, secondo me, comincia a essere molto interessante, perché ha dei limiti. È inutile girarci attorno. Non è una squadra dominatrice, però è una squadra molto, molto furba, molto matura, una squadra che esce quasi sempre dai casini. La partita di Empoli è assolutamente indicativa, nel senso che il Milan ha vinto 4-1 e non ha giocato bene. L'Empoli ha i suoi problemi abbastanza evidenti, però non è, cioè non è banale questa roba qui, soprattutto perché comunque la pressione il Milan comincia a avercela addosso, perché sono ormai 5-6 giornate che è nella parte alta della classifica e non ha quasi mai sbagliato, a parte la sconfitta col Genoa, ma il Genoa lo sappiamo, è capace di grandi imprese. Quindi il Milan comincia a essere molto interessante da monitorare. C'è questa situazione di Bacca, stamattina c'era un tweet di Bacca dal dentista a Siviglia, e dentista a Siviglia tutto, però sembra quasi, no, veramente sembra quasi un po' di dal dentista a Siviglia, mi sembra bellissimo. Secondo me questo è un genere che sui social potrebbe imperversare nelle prossime ore, no? Una serie di foto più o meno vere di Bacca a Siviglia, che va appunto dal barbiere, come ovvio che sia a Siviglia, ma anche anch'io vado dal barbiere a Siviglia. Esatto, a parte le battute, Bacca secondo me non si discute, è un grande giocatore, è un giocatore che partecipa poco al gioco della squadra, ma è un giocatore che segna molto, e quindi insomma prima di fare altre scelte ci penserei un miliardo di volte. Però il fatto che nel momento in cui Bacca sta male, non è in condizione, entra la Padula con questa voglia e questa grinta, è un ulteriore segnale del fatto che la squadra c'è. E se a gennaio riuscisse a fare, e questo è il vero tema, perché ci sono anche gli orizzonti societari non chiarissimi, riuscisse a fare un mercato furbo, intelligente per migliorare ancora, beh, insomma, perché non può pensare di prendersi un posto in Champions? Lo scudetto non credo, ma un posto in Champions perché non... quindi è molto interessante. La Roma ha vinto, ha giocato male, e quindi sono, diciamo, due buone notizie per la Roma, perché ha vinto e ha giocato male. Troppo spesso la Roma nel passato ha giocato bene e non ha vinto. E adesso tocca a Condò. Anch'io penso che la risposta più forte e chiara sia stata quella data dal Milan in questo weekend, anche perché il primo tempo a Empoli è stato di sofferenza e il Milan ha attraversato quella sofferenza dimostrando di essere capace di passarci attraverso e poi di dominare il secondo tempo. Nel secondo tempo non c'è stata partita, tanto che viene date 4. E quindi questa è una di quelle prove. Ti dirò, la Roma, che per me è la seconda squadra del campionato come valore assoluto, lo dico dall'inizio, ieri mi ha deluso. Mi ha deluso il fatto che 2-0, proprio scherzando in 10 minuti col Pescara, ma l'ultima mezz'ora erano terrorizzati, la palla viaggiava senza un senso logico, l'importante era calciarla lontano dalla porta, perché si erano presi paura ovviamente dalle due reti del Pescara. Però ecco, questo è stato ieri, secondo me, nel finale la Roma è stata anche fortunata. Parlo di quel pallone perso da De Rossi, che poi lo stesso De Rossi è riuscito a recuperarlo. Quando questo, ha perso quel pallone, questo ho detto, ci sta abbastanza, no? Sì, no, dopodiché, per carità, come abbiamo detto, può capitare, però è chiaro che le squadre che inseguono, e quindi è già capitato altre volte e hanno perso dei punti, non dovrebbe. E poi c'è una borghesia del campionato, parlo della Lazio, parlo del Torino, naturalmente dell'Atalanta, che è ancora di più. Insomma, l'Atalanta sta navigando fuori da ogni mappa, cioè siamo andati oltre le colonne d'Ercole, stiamo fuori dalla mappa. No, aspetta. Può succedere tutto. Guarda, Atalanta e Torino sono le mie due predilette, quindi rischierei di essere poco professionale nel tessere elogi di queste due squadre, che sono le mie predilette. Paolo, ti ringrazio. Buona giornata a tutti. Ciao Paolo, ciao Condò, ciao, ciao Pierluigi Pardo. Sentiamo domani. 20 secondi sulla Atalanta a Torino. Sono due storie bellissime, diverse. L'Atalanta è una storia di vivaio e di un grande allenatore. Il Torino è una storia, ovviamente, poi tutto funziona, non è che non funziona la società o nell'Atalanta o non funziona l'allenatore del Torino, sono tutti bravi, però diciamo la sottolineatura dell'Atalanta è quella, vivaio e allenatore. La sottolineatura nel Torino secondo me è la società. Sì, vero. Sono lavoro son di d'accordo, sono d'accordo. Ciao Pier, Tiki-taka, guardami, Tiki-taka, ti guardo stasera. A che ora? Alle 23 abbiamo posticipi, ovviamente abbiamo presenti Perotti, bevo Ricotta, un paio di caffè e sarò presente davanti al teleschermo. Ciao Pier. Tutti convocati. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Tutti convocati. Volete che parliamo italiano? Siete i migliori del mondo, veramente, incredibile, grazie mille, troppo bello, proviamolo. Se lo merita tutto, Nico Rosberg è campione del mondo per la prima volta in carriera, riesce dove è riuscito suo padre nell'82 a conquistare il titolo, 20 anni dopo il secondo pilota che riesce a fare quello che ha fatto il padre 20 anni fa, Damon Hill. Questa volta è Nico Rosberg che se l'è sudato, Hamilton ci ha provato, Nico Rosberg l'ha conquistato. Thank you guys, thank you very much. We'll never forget this moment, this thing, this job, so thank you really. All of you guys. All of you guys. È pazzesco, non ci credo che veramente ci sono riuscito sulla stagione la più lunga e con lui secondo me come compagno, perché quello lì veramente va fortissimo e sempre e lotta e prova tutto e vincere contro lui è ancora più la soddisfazione è ancora più grossa. Veramente ho spinto, ho messo tutto quello che ho quest'anno, tutto, cioè sacrifici ovunque, ho provato tutto, mi sono impegnato, spinto, veramente pensato cosa posso migliorare, spinto e quello è il risultato adesso. Leo Turrini, eccoci qua. E pensare maestro, che nelle segrete stanze della mia mente facevo il tifo per il Moro. Devo dirti però subito che c'è una notizia che riguarda il traffico sulla Pino Corbano, perché c'è Lewis Hamilton che va pianissimo, perché spera che Verstappen sorpassi Rosberg. Ragazzi, e quindi attuando il Moro che è il più forte di tutti, ha fatto mezza stagione tra Linz e Yvonne e altre distrazioni, è però arrivata all'ultima corsa, l'ha vinta, è arrivata all'ultima gara dove ha attuato la strategia Aldo Biscardi, cioè il moviolone, un finale di mondiale come quello che in testa la corsa va più piano che può, sperando di provocare un passafracca alle sue spalle. Devo dire che da un punto di vista hamiltoniano, da un punto di vista sportivo, il risultato è giusto, ok? È siamo onesti. Fammi dire una cosa, però fammi fare il tifo per gli irregolari. Sì, ma io lo consentimelo, so che tu la pensi come me, ma anch'io sono sempre stato convinto che Lewis Hamilton avesse qualcosa in più di Nico Rosberg, però io vorrei fare un mea culpa doppio. Allora stai a sentire, nel 2011 a Brisighella, ridente località della Romagna, dove anche adesso c'è una coda, lo dico per aggiornare il traffico, assegnano il premio Bandini a Nico Rosberg. Il Bandini è stato un grande pilota Ferrari anni 60, sì, che purtroppo perse la vita in un terribile incidente a Monte Carlo, e insieme a Nico Rosberg premiano anche il tuo interlocutore, quello che adesso è in linea con te, una cosa inspiegabile, ma insomma premiano me e Nico Rosberg. Lui era in Mercedes, compagno di Schumi, no? Sì. E io gli dico, guarda Nico, che stanno parlando in Ferrari di te come possibile alternativa per il dopo Massa, allora c'era ancora lui Massa. Ha detto? Che... che salutiamo, Felipe, che proprio ieri si è congedato. Felipe, tra l'altro, ieri si è congedato. Esatto. No, no, ma è stato comunque molti onori, un personaggio come Jenson Button, anche lui ha chiuso ieri. E Nico mi guarda e mi dice: guarda, grazie, sono onorato dell'interessamento di un'azienda che si chiama Ferrari, ma uno che guida la Mercedes non può pensare di venire a Maranello. E io gli dissi, e per questo faccio mea culpa, ma tu non hai capito niente. E sono passati 5 anni ed eccoci qui con Hamilton che fa il tappo e Rosberg che diventa campione del mondo. E non solo! Io all'inizio di questa stagione ho detto al mio amico Genta, quando Rosberg ha vinto le prime 4 gare della stagione, sì, ma è un fuoco di paglia, il nero ne ha di sì, più. Però, giusto per tutto... premettere, non è che adesso che è finito il mondiale di Formula 1 non ci sentiamo più, eh? Ma io sai che per te verrei a piedi, anzi come diceva Benigni, per la felicità tutto ignudo, quindi non c'è problema. Tra l'altro adesso iniziano i test, sai che la Formula 1 è un regno della fantasia, no? Sì. È un po' come il regno di Narnia, ma sai, no? Sai, il regno di Narnia, sì. Aspetta, Carlo, cominciano sì. a provare subito le gomme da camion, perché dall'anno prossimo, lo dico per chi ci ascolta ed è in coda, sono appena cromato, le macchine di Formula 1 monteranno dei gommoni da camion che sono larghe, queste superfici pneumatiche, un terzo più delle misure attuali. Sarà uno spettacolo indescrivibile, con una sola certezza. Posso dirlo, caro gente? Dilla. Che la Ferrari non sarà davanti. Perché poi non fare allineati con Marchion, di che la Ferrari l'anno prossimo dominerà il mondiale. Io devo assegnare il premio Gododendro del 2016 all'avvocato Luca Cordero di Montezemolo. Eccola. Diciamolo, presidente di Unicredit, così quando ci sente Barisoni a Focus Economia ci può citare, il quale avvocato Montezemolo è stato cacciato a pedate 2 anni fa dalla Ferrari, da Marchionne, con la motivazione che non si poteva stare un'intera stagione senza vittorie. Ve lo ricordate? Sì. Per carità, con le pedate gli hanno dato anche 15 milioni di euro di buona uscita che non si negano a nessuno, eh? E anche una multipla come auto di servizio per 2 anni. Però stiamo al 2016 e con Marchionne presidente, la Ferrari 0 vittorie. Quindi, premio Gododendro dell'anno l'avvocato. Va bene, Montezemolo. Allora sai cosa faccio io adesso? Sai cosa faccio? Rododendro. Sai cosa faccio io adesso? Io adesso ti faccio parlare con gli ascoltatori. Vabbè, sono pronto. Sei ecco pronto? Via. Sì. Nino. Sì. Nino, buongiorno. Nino è già caduto. Nicola, sì. Buongiorno. Buongiorno, grazie ragazzi per la convocazione, complimenti. Non volevo parlare, anche se la lotta Hamilton-Rosberg è stata affascinante fino alla fine, volevo parlare della Juve, se si può. Ah, con Turrini può parlare di Juve, di Inter, di Sassuolo. Perfetto, allora un saluto anche a Turrini. No, volevo dire questo, ieri ero a Genova a vedermi la partita e io sono juventino e dico che è stata veramente dominata dal Genoa e non c'è stata storia, insomma. E ho visto la Juve quest'anno anche in gare con l'Udinese, Sampdoria e Chievo. E dico la verità, nonostante nelle altre 3 occasioni ci siano state altrettante vittorie, la squadra non mi ha mai convinto, non c'è stato un gioco e secondo me il problema grosso è a centrocampo in fase di impostazione. Io inizialmente ero una vedova di Conte, sì. però poi mi sono dato un po' di tempo per giudicare Allegri e visto, secondo me il mio pensiero è questo, il capolavoro di Allegri è stato fatto la scorsa stagione, non la finale di Champions, perché in quella stagione io sono convinto che quella finale è stata più che merito di Allegri, spirito di rivalsa di senatori juventini alle parole di Conte che continuava a sostenere che quella squadra non poteva entrare nel ristorante da 100 euro con 10 euro. Sì, e per me era quella la cosa. Invece il capolavoro di Allegri è stato fatto l'anno scorso. Allora, io dico a Leo Turrini che vorrei fare il tifo per una squadra che è prima in campionato, nonostante la sconfitta pesante ieri a Genova, ed è prima nel girone di Champions League, unica in Europa. Ma non solo, ma maestro, gente, devi perché dire nostro... lei fa il tifo per una squadra che è a metà classifica in campionato fuori dall'Europa League. Ma mi quindi... scusi, maestro, gente, ma il nostro... carissimo interlocutore che si lamenta della Juventus di Allegri, ma sa qual è il mio hashtag? posso dirlo? Dillo. Hashtag Ferrari Inter, mai una gioia. Allora, sì. Ieri sera ero a Sky e ho incontrato Leonardo. Cosa ti ha detto? Ho abbracciato Leonardo, gli ho detto: senti Leo, io ti devo dire una cosa, l'ultimo allenatore ad aver alzato un trofeo con l'Inter, la Coppa Italia 2011. Dico: ma perché non sei tornato, no? Io nessuno capisce a livello dirigenziale. Magari perché nessuno l'ha chiamato. No, invece mi ha detto: guarda, eravamo lì, ma in realtà poi tutto quello che sembra buono a Massimo Moratti sembra pessimo a Tohir, che è ancora socio di minoranza dei cinesi, e quindi il risultato è questo, che Leonardo viene a Sky con me. Allora io dico, io mentiri, come faccio a lamentarci? Voglio dire, avete passato il turno di Champions, siete primi in classifica, vi lamentate. Ma cosa volete di più? Cioè, cosa volete di più? Ma ne vogliamo parlare. Premio Rodo dentro dell'anno a Sergio Marchionne per le ragioni che abbiamo esposto in precedenza. Io leggo un grande Leo, il tuo libro su Bartali è nel mio cuore, Dario sul camion, lo leggi in ogni pausa. Ringrazio, perché devo dire che è una storia non per merito mio, bellissima. Io credo che la figura di Gino Bartali sia davvero una delle più nobili del Novecento italiano, non solo per il contesto agonistico. E d'altra parte Bartali, anche lui come me, insomma, ferrarista, interista, mai una gioia, hai capito? Lui aveva Coppi, allora. Noi della Ferrari abbiamo la Mercedes, che cosa vogliamo fare? Però ieri Vettel è arrivato terzo. Gli ultimi dieci, ieri uno, sai, aveva anche la sensazione, dice, hanno trovato la macchina agli ultimi 20 chilometri del campionato. Turrini, un brodino di dado vegetale. Ma guarda, gli ultimi 20 chilometri erano quello che tutti sognavano, no? Cioè la Ferrari in pista, nettamente più veloce della concorrenza. Ma era un miraggio nel deserto, amici di Carlo Genta, perché stavamo a Abu Dhabi ed era il re nero ormai prossimo all'abdicazione e andava la moviola applicando la strategia Aldo Biscardi. Però non gli è stata sufficiente. Allora facciamo i complimenti a Rosberg. Tra l'altro è molto bello che Rosberg abbia festeggiato. Senti, tu prima hai fatto sentire Leo, il podio rispondi di Monza in italiano. Rispondi a Fabio da Padova, che vuole parlare di Formula 1. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo dire la mia da emiltiano. Da emiltoniano. Facciamo così. Anch'io sono allora, emiltoniano. Secondo me la Mercedes ha regalato il titolo a Rosberg, perché non si può, statistiche alla mano, con 10 vittorie a parte di Hamilton e 9 di Rosberg, e con 12 pole position e confronto a 8, ho un pilota che gareggia 205 Gran Premi prima di vincere un mondiale. Fabio, questo lo scopriremo tra 10 anni, quando Hamilton scriverà la sua verità. Sì, però posso dire una cosa da hamiltoniano. L'amico al telefono ha fatto una considerazione corretta, ma dobbiamo essere il più possibile obiettivi. Cioè Lewis, dopo aver vinto il mondiale l'anno scorso, ha fatto un intero inverno tra Rihanna, le Barbados, il Carnevale, Turrini, è così che ti voglio, ma e tu pensa, e tu pensa che nonostante tutto questo è arrivato a un pelo da rivincerlo. Ma voglio dire la più grossa, cioè siamo all'epilogo della stagione e il Hamilton si concentrava sul fatto che doveva congelare il seme del suo cane Rosco perché vuole avere una discendenza di razza canina uguale. Cioè, allora, diciamo la verità, Hamilton si è buttato via, perché poi se tu vai a prendere il bilancio complessivo della stagione, Rosberg ha avuto una rottura sul missile Mercedes, Hamilton 2, cioè anche Hamilton ne ha avute 5. Il problema è che Hamilton per mezza stagione tutte le volte è andato partenza, a spasso, Leo. No, alla partenza metteva la retro. È andato a spasso e a momenti vince il mondiale. No, ma sono d'accordo, ma contate gli start che il re nero ha cannato platealmente. Lì non c'entra la squadra, le strategie, nessuno. Molto probabilmente lui, dopo aver dominato per 2 anni di seguito il rapporto con Rosberg con una macchina irresistibile, ha pensato di poter vincere guidando col gomito di fuori, ha sottovalutato il suo compagno di squadra. Ma questa è la sua colpa. No, secondo me no, secondo me semplicemente si è preso un anno sabbatico di divertimento, non ha sottovalutato niente. Infatti guarda, io sono convinto di una cosa, 2017 diciamo stare che la Ferrari dominerà perché Marchionne ce lo spiegherà per tutto l'inverno, quindi siamo tranquilli, ma al di là di queste profezie del presidente di Maranello, l'anno prossimo è l'anno della verità, perché se quello che abbiamo sempre creduto noi, cioè che Lewis ne ha di più rispetto a Nico, dopo un'annata come questa lo asfalterà, non gli permetterà più di vincere le prime quattro gare dell'anno, dipende dall'inverno e dalle frequentazioni. È chiaro che se poi questo durante la sosta eccetera sta sempre in barca e i carnevali, ma quest'anno abbiamo visto delle scene, ragazzi, Hamilton che diceva via radio ai suoi ingegneri: ma spiegatemi che pulsanti devo correggere, io non lo so, cioè Rosberg mi sapeva a memoria, no? Leo, parliamo con Alberto da Brescia. Dai, Alberto. Alberto, buongiorno. Buongiorno. Dica. Leo, prima parlavi di Brisighella. Sì. A Brisighella, secondo me, c'è una strada dove Raikkonen le vince tutte. Che strada è, dimmi? La strada dell'Asidi. Adesso voglio dire, io sono un grande sostenitore di Kimi e faccio notare al mio amico interlocutore che nella stagione 2016 un pilota reputato da Carrello dei Bolliti, dei migliori ristoranti dell'Emilia Romagna, Modena, Maranello compresa, su 21 qualifiche è stato 11 volte davanti al re del giro secco che si chiama Seb Vettel. Allora la domanda che vi dovete porre, amici del PAR, partito anti-Raikkonen, è questa: ma se Raikkonen è bollito come uno zampone di Natale, no? Cosa dobbiamo pensare del 4 volte campione del mondo Vettel? Non è che forse bisognerebbe invece equilibrare il giudizio e dire che Kimi è ancora un signor pilota, dato appunto che ha fatto la stessa stagione. Kimi è un idolo comune tra me e te. È stato migliore di lui in prova, in qualifica, eh? Una volta Gianni Agnelli che non sì, però l'errore sta dall'altra parte, cioè quale? Dal fatto che Vettel l'ha data su dopo tre gare. Ah vabbè, ho capito, ma questo però non è mica una giustificazione. No, non sto dicendo che no, sto dicendo che è un dato di fatto, quindi... caro Zeta, allora noi dobbiamo allargare il ragionamento e dire una cosa, che Seb Vettel, che è un grande campione, sicuramente ha pagato un prezzo molto alto alla frustrazione, perché quando si è reso conto a primavera che le sue, le mie, le tue, le nostre aspettative di tifosi della Ferrari erano mal riposte, ha avuto una crisi di identità. Perché io Vettel lo stimo tantissimo, ma non si può dire che quest'anno abbia avuto lui, al di là del rendimento modesto della vettura, una stagione perfetta. No, assolutamente, stiamo dicendo la stessa cosa, Leo. Il che è noioso. È il coach, però formato dietro Hamilton, che ormai sta facendo gli ultimi giri del mondiale a 20 all'ora, nella speranza che qualcuno tamponi Rosberg, hai capito? Allora, ascolta me, sentiamo la top 3 della giornata di calcio, le tre voci più divertenti della giornata di calcio insieme, poi parliamo con Andrea da Arezzo e poi ci salutiamo. Allora, la prima è per Gasperini. Paragone Atalanta-Leicester, che sta ormai diventando un... come dici tu, Giorgio, che sei frequentatore dei social network, un... virale, eccolo. Vabbè, questo ce lo stanno... sto ritornello ce lo stanno appioppando un po' tutti. Ma non lo so, non credo, mi sembra che in Italia sia molto difficile. Noi sicuramente siamo molto felici di quello che stiamo facendo, non possiamo caricarci di altre responsabilità, però giochiamo ogni partita così e affrontiamo al meglio delle nostre possibilità. È fantastico per me, un po' per tutto quanto l'ambiente, riuscire a vedere questi ragazzi giocare con questa sicurezza, con questa qualità. Poi Montella, Bacca è andato a Siviglia dal dentista, dal barbiere, eccetera eccetera. È stato autorizzato dalla società, è stato autorizzato da me, nei giorni liberi un calciatore può andare dove vuole. e quindi non c'è nessun problema, insomma. Mi auguro per lui che si sia divertito, noi ci siamo divertiti molto. Infine, Dzeko che guarda al derby della settimana prossima. Adesso siete a meno 4, ci pensate o andate partita per partita? No, io guardo solo partita dopo partita, perché così dobbiamo fare, ma dobbiamo migliorare, perché se giochiamo come oggi non vinceremo il derby. Va bene, questa è la top 3 della settimana. Adesso abbiamo ancora un minuto e mezzo. Io ringrazio e saluto Andrea da Arezzo, perché ci sentiremo un'altra volta. Con Leo Turrini volevo invece unirmi in una prece per un nostro amico. Sì, beh, a me fa tanto piacere mandare un pensiero a Marino Bartoletti, che è uno di noi, se posso permettermi, anche come uno zio per noi, perché ha qualche anno in più, che è stato colpito da un lutto gravissimo, e mi fa piacere dire insieme a te che gli vogliamo bene. Sì, gli vogliamo bene. E guarda, io sabato sera, quando ho saputo questa notizia, cioè, importerà nessuno, è una questione privata, ma mi sono rotto in un pianto disperato e tant'è. A Marino vorrò sempre bene, come me, forse non come me, però tutti gli ascoltatori di Radio 24, penso, e Leo Turrini compreso. Penso di sì, perché chi lo conosce anche solo professionalmente, insomma, ha saputo coglierne l'umanità, la nobiltà d'animo, e spero che possa trovare la forza per tornare a unirsi a noi. Leo, posso salutarti? Grazie. Un abbraccio. Ciao. Ciao Leo Turrini. Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Alvise Falzoni in redazione. Ciao ragazzi, sentiamo domani.